Radio 24. Libera la voglia di fare. Cronache da un paese migliore, di Alessio Maurizi e con Carlo Gabardini. See the girl with the diamonds in her shoes. She walks around like she's got nothing to lose. Just see the go-getter, she's everybody's type. She's a queen of the city, but she don't believe the hype. She's got her own elevation, holy motivation. So I wrote some letters on big bold type. I got faith in you, baby. La contromossa di Visco, il governatore pronto a reagire e per ora non pensa a farsi da parte. Il Corriere della Sera. Banca Italia, ora Visco è più forte. La Repubblica, il piano di Gentiloni per confermare il governatore, soluzione che piace anche alla BCE. Ma c'è anche sulla stampa, scontro sul referendum del Nord, il PD attacca, rischio Catalogna, il ministro Martina accusa la Lega. Salvini dice non vogliamo uscire da niente e da nessuno. E invece il Fatto Quotidiano, un titolo ironico, che sorpresa, l'atto di accusa a Visco l'ha scritto la Boschi. E ancora sul referendum, Libero, l'autonomia fa paura ai parassiti abituali, manovre sporche per screditare il plebiscito. Quelli contrari al referendum di Lombardia e Veneto sono talmente terrorizzati che parlano di brogli. Ancora prima che si voti, buongiorno da Alessio Maurizi. E buongiorno da Carlo Gabardini. Questi sono i titoli dei giornali di oggi, quindi la questione Visco ancora. Referendum e... molto referendum, molto anche referendum. Il Messaggero, i conti nascosti del referendum, il secolo XIX, battaglia sui referendum. E calcio però anche, giochi di potere, scrive la Gazzetta dello Sport, perché oggi c'è la partitona. Napoli-Inter. Partitissima, Napoli-Inter da primato al San Paolo alle 20.45, fuga o sorpasso, scrive la Gazzetta. I due strateghi studiano mosse e contromosse. Tra l'altro c'è anche l'intervista di Spalletti che entra così, diciamo, a gamba tesa sull'argomento di prima pagina, cioè sulla questione delle banche, Visco, e fa un paragone, dice, siccome sul passato di Sarri che lavorava in banca, avrebbe fatto il ministro se non avesse il fatto il ministro dell'economia. Mi sembra un'ottima battuta, perché in realtà sì, è un complimento, ma forse anche una speranza anche un pizzico, di non averlo come avversario, o forse spererebbe giustamente oggi di giocare contro un Napoli allenato da Visco, perché effettivamente un Napoli allenato da Visco sarebbe più debole. Ma c'è anche la questione smog sui giornali di oggi, perché la Stampa in prima pagina dice, riporta le parole di Galletti che intervista Pianura Padana, smog, Galletti, le città rispettino il protocollo. Però meno, se posso dire, sì. c'è molto meno smog di quello che mi aspettavo, e infatti io personalmente farei i complimenti al Manifesto, al di là del titolo, se poi dopo decidiamo se è il super titolo o meno. Però è in primissima pagina, scrive, auto shock, 9 milioni di morti all'anno nel mondo provocati dallo smog. È l'allarme lanciato da 47 scienziati sulla rivista Lancet. E mentre l'industria dell'auto sacrifica la vita sull'altare del profitto, le città soffocano. A Torino e Milano, emergenza inquinamento fuori controllo. Complimenti che gli danno il giusto risalto, perché invece mi sembra un problema sostanziale. Allora, andiamo però a vedere, anzi a sentire con il nostro Andrea Ferro ancora una volta la rassegna stampa on the road. Sentiamo che cosa invece, questi sono i giornali di oggi, che cosa invece vorrebbero trovare i lettori sui giornali di oggi. Vai. Buongiorno Alessio, buongiorno Carlo, proseguiamo anche questo sabato nella nostra rassegna stampa on the road. Quali sono le notizie a parte il Napoli, perché vedo che è una maglietta del Napoli che la interessano in queste ore? Della Spagna. Secondo lei come va a finire? Sarà lo Stato catalano. Ma un bene o un male? Secondo me è un bene, perché è il cittadino che deve decidere. La politica, le interessa la politica? Sì, sì, cioè adesso stanno parlando... Legge elettorale? Sì. Poi questo scandalo sessuale in America. Ma sono stati anni con lui, hanno fatto carriera, hanno preso Oscar. C'è chi ci sta e chi non ci sta. Sono scelte personali. C'è una notizia, non ho mai letto sui giornali. Più di una. Cioè? Leggi solamente, trovi solamente su internet, perché secondo me è brutto a dirsi, ma sia i giornali che i telegiornali seguono delle fazioni politiche, quindi... Diciamo che la notizia che sta suscitando più interesse è quella sulla nuova legge elettorale. La gente si lamenta sempre, dice che alla fine non cambia mai niente, rimangono sempre gli stessi a governare. Leggi giornali? Assolutamente no. Perché? Perché non mi interessano, tutte fandonie. Ecco, ma c'è qualcosa che avrebbe pensato di trovare sui giornali un giorno e invece continua a non trovare? La verità. Non sono dall'Italia e quindi non mi interessava più di tanto, ma di solito sì, va bene, cerco di andare a leggere. Di dov'è lei? Israele. Mi interessava di più le notizie sul Champions e il Milan. E va bene, questa era la carrellata di voci di lettori. Sul caso Weinstein alzo io bandiera bianca perché non ne posso più. Sembra che sia l'unico caso di violenza compiuta nel mondo negli ultimi 50 anni. È che sta assumendo delle proporzioni. Anzi, su questo c'è in realtà una nuova notizia, perché c'è una nuova accusa di una attrice modella italiana della quale non si sa ancora il nome, però si sa che ha 38 anni, che ha avuto una copertina su Vogue. Quindi credo che molto presto ne sapremo il nome, anche perché, come si sa, i segreti ad Hollywood non durano mai più di 24 ore. E però c'è purtroppo l'accusa di una nuova, anzi proprio di stupro, e pare che Weinstein abbia già trovato una villa in Svizzera da affittare, dove diciamo scappare, si può dire, o perlomeno ripararsi. Il taglio diverso, contropelo di Libero, come spesso accade, le attrici si offrivano altro che violenza. E in realtà è un commento di Franco Bechis da questo punto di vista. Poi che dire? Ah, Catalogna. Beh, dire che fosse un po' riduttivo, ecco, una visione dove si offrivano, punto, e allora va bene, siccome, insomma, dare la responsabilità alle attrici mi sembra un po' facile. Catalogna, un ascoltatore voleva che si parlasse di Catalogna. In effetti oggi sui giornali non si parla più di Catalogna. Vedi come le notizie se ne parla meno. Queste onde, no? Il re Felipe ha parlato, ha detto che è un tentativo inaccettabile di secessione quello della Catalogna. Oggi tra l'altro Madrid dovrebbe sospendere decidere. Ah no, scusami. L'autonomia, col famoso articolo della Costituzione che prevede la sospensione del... Il Fatto Quotidiano ne parla, in realtà dice Madrid vuole voto anticipato in Catalogna, e se ne parla su diversi giornali, però giustamente non con i titoli, ma in riferimento al referendum del Nord, perché c'è chi ha detto si rischia un'altra Catalogna. Poi altri titoli, andiamo a vedere, per esempio La Verità: per il governo uno stupro vale 4.800 euro, direte, ma di che stiamo parlando? Legge appena entrata in vigore, con 12 anni di ritardo, l'Italia si adegua alle norme europee sui risarcimenti alle vittime di delitti compiuti da nullatenenti, ma le cifre stanziate sono ridicole: 7.200 euro per un omicidio, una donna... invece l'assegno per lo stupro si aggira sui 4.200 euro, ammesso che non vengano riconosciute attenuanti. Che detto così, dopo Weinstein uno dice lui i soldi ce li ha di sicuro per pagarseli tutti. Ma giustamente poi è letto dalla Verità, visto che uno degli ascoltatori ha detto nell'intervista quello che non trovo nei giornali è La Verità, e tu rispondi con La Verità. Allora tra poco torniamo con un po' di buone notizie. E poi, cari ascoltatori, oggi all'800 24 00 24 vi annuncio che dopo il GR delle 8 parleremo di call center. Tutti noi vorremmo avere un rapporto più sano. E vi chiameremo a casa uno a uno, voi esatto. Ascoltatori, me ne occupo io. Alessio parla, fa la trasmissione, io vi chiamo. Alla Camera si profila un accordo per una legge che dovrebbe porre fine alle telefonate moleste, ma gli operatori dei call center temono che il settore, che occupa 40.000 persone, possa risentirne, quindi si perderebbero dei posti di lavoro. Non sia mai che per riformare i call center chiudiamo i call center. Sarebbe bello che i call center fossero nostri alleati, no? Nella vita quotidiana, anziché dei molestatori. Anche perché senza non se ne può. Non si può fare. Esatto. 800 24 00 24, vi vogliamo anche in diretta oggi per il gioco, per stare con noi e per declamarci il vostro verde in casa, piantine, piante, gelsomini, le aiuole verdi che avete in mezzo alla strada, davanti casa vostra, se abitate in città, perché è stato approvato, lo sapete, l'eco bonus, non è stato ancora approvato, ma insomma è una misura di cui si sta parlando, 36% di detrazioni per il vostro verde condominiale, ma anche sul balcone di casa. C'è anche una piantina? Vale tutto. Io devo studiarlo, vale poi tutto. Me la devi spiegare questa cosa dell'eco bonus. E siccome domani, tra l'altro, è la giornata dei parchi letterari, tante iniziative, eventi in tutta Italia, abbiamo pensato, perché non trasformate il vostro verde sul balcone in un parco letterario? E quindi provate a fare un componimento in rima, se riuscite, che parli delle vostre piantine. Che ne so, è difficilissimo. Se lo riuscite in rima va bene anche in prosa. Esatto. Ma anche il basilico, cioè posso detrarre il basilico? Basilico, però è difficile fare una rima con basilico, Invece io ho pensato bambini gelsomini. Buona, questa, buona. Ve la butto lì così. 800 24 0024. Tra poco. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Oh, ma siccome questa non è una rassegna stampa normale, noi cerchiamo soprattutto buone notizie. Che è il lavoro più difficile in questi weekend, posso dire. Ci facciamo pagare molto bene, perché le notizie buone non ci sono. Solo gli alberi salveranno le città dallo smog, scrive in prima pagina Repubblica, ed è una, più che una buona notizia, è un auspicio, diciamo così, perché in effetti di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di The Nature Conservancy, che ha tradotto al... in numeri l'effetto antinquinamento delle piante che usano, lo sapete, l'anidride carbonica per respirare, sono dunque un aspirapolvere naturale di questo gas serra che oggi, già oggi, il verde nel mondo ci libera da un quinto delle emissioni. Già oggi, se si smettesse di tagliare alberi, scrivono questi scienziati, senza bisogno di ulteriori azioni, bilanceremmo l'effetto inquinante di 620 milioni di auto. Beh, non sono poche. E poi... Più che una buona notizia, giustamente come dici tu, è un progetto, un progetto nel senso che sarebbe ottimo. Cosa si fa invece nelle città italiane? Sempre su Repubblica, smog a Torino, lite sulle finestre chiuse. L'ex sindaco Chiamparino se la prende con l'attuale sindaco Appendino, che aveva detto di tenere le porte e le finestre di casa chiuse, sapete? Allarme eccessivo. Il ministro dell'Ambiente Galletti dice pure misura non prevista. La sindaca replica: noi siamo un esempio coraggioso. Dalle buone notizie sei scivolato in una notizia schifosa, posso dire? Perché no? E da oggi, dice sempre l'Appendino, nuova stretta, stop anche alle Euro 5, ferme 350.000 auto. Su questo bisogna dire che, al di là del fatto di tenere chiuse le porte, le finestre, si può parlare di eccesso di allarmismo, non lo so. Ma più che eccesso di allarmismo, che forse non è una soluzione, nel senso che non è che puoi dire: ragazzi, la città è molto inquinata, non aprite le finestre. Però quando lo dice il sindaco di Londra, Cannes, che bisogna proteggere i bambini all'inquinamento, va bene. Se lo dice l'Appendino, non va bene. Ma no, non dico bene come, ma non può essere la risposta questa. Ascolta, perché qua abbiamo la notizia: Torino è l'unica città che ferma diesel Euro 5, che si fermano, per esempio, anche a Londra e a Parigi. Invece normalmente nel resto d'Italia siamo fermi agli Euro 3 o Euro 4. Però producano gli Euro 5 per tutto il resto del paese. No, scusami, era una battuta. Invece Repubblica, nella parte della cultura, c'è un interessante articolo di Maurizio Ferraris sulla supercazzola, come quella, diciamo, di Ugo Toniazzi, di Amici Miei, come anticipazione della post-verità, ovvero la post-verità è l'etere della nostra epoca, ma ovviamente nulla nasce dal nulla e, come molti hanno notato, l'albero della post-verità affonda le sue radici in età lontane, riconducendoci forse agli albori della civiltà. Senza risalire tanto indietro, vorrei svolgere qualche riflessione sulla via italiana alla post-verità, ovvero la supercazzola, che nello Zingarelli è definita così, parola o frase senza senso pronunciata con serietà per sbalordire e confondere l'interlocutore. Quindi in realtà sbassa un po' la questione, se vogliamo, delle fake news, perché non tutte le fake news sono così terribili, a volte sono semplicemente delle supercazzole contro le quali ci si può difendere. Anche questa era una bella supercazzola, Carlo, complimenti. È un pezzone molto lungo che ho cercato di due sintetizzare. Buone notizie, Abbiamo buone notizie. Anche a Parigi il bosco verticale di Stefano Boeri, ebbene sì, l'idea dell'architetto italiano che lo ha realizzato a Milano sbarca anche a Parigi. Poi sempre da Milano parte la riqualifica di una periferia, per una volta tanto demolito una casa popolare fatiscente in via Lorenteggio al 181. Tre anni fa era crollato un balcone, adesso è partita la demolizione. Ruspa in azione nelle case popolari fatiscenti, nuovi alloggi nel 2019. Il quartiere cambia volto, secondo l'assessore alla casa di Milano è la più grande riqualificazione con fondi europei partita in Italia. Bravi. Su invece il secolo XIX un bel articolo sugli hacker buoni, ovvero quelli che decifrano i segreti dei criminali, che mi sembra anche una buona notizia. Spesso si parla di hacker in senso negativo, invece esistono anche gli hacker buoni. E adesso è il momento di conoscere il comune ribelle della settimana, la rivolta delle buone idee, insieme a Marco Boschini dell'associazione Comuni Virtuosi. Questa volta sentiamo dove ci accompagna. Ciao Carlo, il comune ribelle di questa settimana è Melpignano, in provincia di Lecce, noto in tutta Italia per la notte della Taranta. Qui il comune guidato dal sindaco Ivan Stomeo si è inventato questo progetto per promuovere la partecipazione nella quotidianità. Il progetto si chiama Un caffè con il sindaco, la prima giornata è stata domenica scorsa, ce ne saranno altre. Le regole di ingaggio sono molto semplici, non ci sono piedistalli, non c'è qualcuno che ha una verità in tasca e gli altri ascoltano, ma è un confronto tra cittadini e amministrazione, un'amministrazione comunale che è abituata ormai da anni a promuovere politiche partecipative. Il bilancio si fa con i cittadini, la programmazione urbanistica della pianificazione è fatta insieme ai cittadini. Questo è un tassello un po' più piccolo ma altrettanto concreto che favorisce la partecipazione, come diceva Gaber, libertà e partecipazione. Ma che grande citazione, Marco Boschini, in chiusura del Comune Ribelle. La vera domanda è chi lo paga il caffè? Bella. Quando si prende un caffè col sindaco. Dovremmo chiederglielo. Abbiamo la prima ascoltatrice di oggi, Carla da Torino. Vai. Buongiorno. Buongiorno. Allora, sentite, io ho due balconi favolosi. Sì. Ha le finestre chiuse, visto che è a Torino? Ma io soffro anche di, come si dice, di asma, di bronchite asmatica. Perfetto. E se non ho l'aria mi sento morire. Brava, ecco, allora apra Carla. E questo balcone con questo allora, verde? Allora ne ho due. Uno che dà sul corso, che se lo vedete la gente mi chiede se c'ho una selva. Allora, c'ho la sporcizia, sapete qual è? No. Io la chiamo, no. Quella sì. È la prima che in primavera fa i fiorellini gialli e poi fa tante foglie. Sì. Sforzizia. Sforzizia, Carla, sì, noi dobbiamo chiudere perché c'è il GR, però ti richiamiamo dopo perché tutte queste piante vogliamo saperne di più. 800 24 00 24, a dopo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. I like to start out by saying, fellas, good night. Yeah. You know what it's about. If you're looking for a mister, someone to treat you right. Well, I was talking to your sister. So you've been crying every night. Quanto belle sono le piante, sono verdi, sono tante, se le tocco sulle foglie si risvegliano le voglie. Poi di star dietro al paravento e di leggere, contento. Spero vada bene, dice Roby da Milano. Ma va bene, però allora io ti rispondo con la poesia di Pollo. Le piante sul terrazzo io le amo, specie una verde che punto non si mangia, ma profuma, mi risponde, io l'annaffio piano piano, c'è un arbusto che io adoro ed è la ganja. E capiamo perché si chiama Pollo, probabilmente perché ha le mani appiccicate. Cose e chissà mi capisce. Allora, ascoltatori, in ossequio al bonus verde di cui si sta parlando in manovra, una detrazione del 36% per le vostre piantine, per il vostro verde su balconi e terrazze, vi chiediamo oggi di reclamare il verde che avete di fronte a casa o dentro casa vostra. Abbiamo Carla in linea da Torino, l'abbiamo lasciata sospesa. Carla, ci stavi parlando dei tuoi gelsomini. Vai. Allora, io sul balcone si può fare un'ortensia enorme, quella che dà sul corso, un gelsomino, sì, papiri, geranni, cactus che è alto un metro e mezzo, due cactus, sì, rose. So, vabbè, c'hai di tutto, Carla. Riesci allora, a declamare in prosa o in rima qualcosa velocemente? No, vi dico un'altra cosa, si può fare, perché il papiro basta che tu lo tagli da sopra, e lo metti al contrario, fa le radici e vengono dei papiri enormi. Grazie Carla, bellissimo. Questo consiglio green va bene. Carla, abbiamo bisogno di andare con Giorgio dalla provincia di Lecco, perché vogliamo vedere se riuscite. Dobbiamo assegnare il premio anche oggi, biglietti della mostra Egitto al MUDEC di Milano. Giorgio, vai. Buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno. Siamo dalla provincia di Lecco. Sì. Anch'io niente, volevo declamare così la mia poesia. Siamo tutti orecchi. Bravo Giorgio, vai, declama. Allora, apro gli occhi, è già mattino, esco sul mio balconcino. Senti un po' che profumino, sarà salvia o rosmarino? Mi sa che mi sto sbagliando, annuso bene sbadigliando. In preda ai fumi del buon vino grido forte: questo è Timo! Vabbè, dai, sta arrivando. È finita, Giorgio? È finita. È perfetta, è perfetta. Alla fine, diciamo, vino, Timo, c'è un cambio di consonante, ma lo accettiamo lo stesso. Sai che qua abbiamo il critico di alta scuola. Giorgio, ma questa qui ce l'avevi in canna o te la sei inventata davvero stamattina? E questo è il problema, che me la sono inventata stamattina, mi sono svegliato. Potrei dirti, non è il problema, è potrei ottimo. Dirti che si sentiva, ma non te lo dico. Bravo, e partecipi, Giorgio. Partecipi all'estrazione. Grazie. Bravissimo, mille. Grazie. Va bene. 800 24 00 24, siamo qua. Adesso però parliamo di call center, della riforma dei call center. Potrebbe avvicinarsi il momento nel quale diremo addio al telemarketing selvaggio, cioè alle telefonate moleste, quelle degli operatori che ti propongono contratti di tutti i tipi. Alle 23.47, esatto, a volte. Luce, gas, telefono, eccetera. Perché diciamo questo? Perché alla Camera sembra sia stato raggiunto un accordo su una proposta di legge che nella versione precedente, perché questa legge viene dal Senato e sembra che i tempi di approvazione ci siano, nella versione precedente però dicevano gli operatori dei call center, minacciava però di far chiudere i battenti a molti call center e di perdere il posto di lavoro a 40.000 persone, fino a 40.000 persone. Ora va bene riformare i call center, però ci poniamo anche la domanda di questi posti di lavoro. Tra l'altro i call center sappiamo che sono sempre più il presente e il futuro, sono indispensabili, non possiamo farne a meno, vorremmo magari averci un rapporto migliore ma non possiamo farne a meno. Allora abbiamo scelto oggi di parlare di questo con Paolo Sarzana, presidente di Asso Contact, che buongiorno intanto. Buongiorno a voi. Benvenuto. Buongiorno. Che rappresenta, insomma, diverse aziende, operatori. Quanti in Italia nel settore call center, Sarzana? Ma guardi, le nostre imprese sono circa 50 e nell'attività di telemarketing rappresentano la quasi, diciamo, il 70% del mercato, almeno, diciamo, del mercato, chiamiamolo ufficiale. Benissimo. Allora, l'emendamento approvato, sì, vi chiedo anche di spiegare, poi di spiegare, sì, l'emendamento e poi di spiegare la vostra, sì, posizione. Io, semplificando, spiego così. Si parte dal punto di vista di avere un numero riconoscibile, che permetta alle persone di sapere che in quel momento ti sta chiamando non un tuo parente, che ne so, dal Veneto, ma ti sta chiamando un call center. Si è parlato prima di un prefisso unico, adesso sembra che l'accordo sia su due prefissi, uno per i call center e uno per le indagini statistiche. Sembra una norma di giusta trasparenza che va incontro alle richieste dei consumatori, però voi avete espresso qualche perplessità, ci spiega? Sì, in realtà le perplessità le abbiamo espresse sulla prima soluzione, quella che era stata identificata dal Senato, che prevedeva solo l'opzione, diciamo, del prefisso unico. Quindi tutti avremmo visto, come dire, un prefisso senza avere la possibilità di distinguere, come dire, buoni dai cattivi. Cioè il prefisso terrorizzante. Sì, in realtà esiste già una nuova proposta di regolamento europeo che andrà in vigore a giugno del 2018 che sì. prevede entrambe le possibilità, quindi o il prefisso o il numero identificabile e ricontattabile. Quindi l'abbiamo fatto presente, questa cosa è stata compresa ed è stata, come dire, accettata dalla Camera. Quindi cioè il fatto di avere due prefissi diversi, uno per diciamo il telemarketing e uno per le statistiche, questa? Realtà, no, non è così. Ah. Nel senso che il prefisso unico rimane ed è stato modificato nella doppia opzione, come dice lei, quindi ce ne sarà uno per le attività commerciali e uno per le ricerche di mercato. In alternativa lei, avete in la possibilità di fare un room non riconoscibile. Il numero, esatto, riconoscibile e ricontattabile. Mm. Quindi diciamo è alla libera scelta dell'operatore da questo punto di vista, per quanto riguarda l'accordo raggiunto alla Camera. Sì. Quindi, ma peraltro guardi, lo prevede la normativa europea. Sì. No, non ho capito. Se il numero è ricontattabile, può anche non avere un prefisso riconoscibile? No, no, certo che deve essere riconoscibile. Però se io e lei oggi che riceviamo la chiamata di un call center, sì. di solito, non so, lo 02, eccetera, e richiamiamo, non riusciamo a entrare in contatto certo. con chi stava chiamando. Invece ecco, con la nuova norma, diciamo, sarà obbligatorio. Di modo che uno può dire non voglio più essere chiamato da questo numero. Sì, mm. sì, esatto, però resta il fatto, in questo diciamo compromesso raggiunto, che non ci sarà un prefisso unico riconoscibile, perché è immaginabile che molti call center optino per la possibilità di avere un numero sì ricontattabile, ma non un prefisso unico, e quindi praticamente il consumatore da questo punto di vista continua ad avere una chiamata e può pensare che siano appunto i parenti che lo chiamano da qua e da là, e invece è un call center. È giusto questo? Sì, sì, questo è corretto, anche se il telemarketing selvaggio qui sì. come dire, non è figlio, come dice, quando voi prima dicevate riceviamo delle telefonate anche alle 23:45, no? Sì. Ecco, le nostre aziende devono rispettare un codice deontologico, cioè noi non possiamo telefonare ai clienti dopo le ore 21. Ah, perfetto. No? Quindi se qualcuno ci chiama dopo le 21 possiamo dirgli almeno che stanno facendo una cosa illegale? Assolutamente, qualcuno che sta violando le regole. Perfetto. Quindi in Italia esistono, come dire, contratti nazionali collettivi di lavoro, che peraltro in questo caso sono quelli delle telecomunicazioni, che prevedono una paga oraria base a cui si aggiungono dei premi. Insomma, chi non utilizza questi contratti, utilizza contratti pirata, quindi paga benissimo. Questi ragazzi. Però Sarzana, esatto, lo sfacelo. L'altro punto in questione, l'altro emendamento riguarda la questione del consenso, no? C'è una grossa sì. questione sui consensi, perché sì. sappiamo che sì. spesso i nostri numeri li inseriamo all'interno di schede precompilate sì. che riguardano sì. servizi sì. che magari acquistiamo online, e poi questi numeri vengono legittimamente venduti come servizi e poi i call center li utilizzano per contattarci. Sì. Si chiedeva di azzerare questi consensi, che spesso però sono in qualche modo vissuti da chi li concede come estorti fondamentalmente. No, ecco, invece anche da questo punto di vista sì. qual è la soluzione adottata? Allora, innanzitutto anche in questo caso diciamo il 25 maggio del 2018 entrerà in vigore il nuovo regolamento europeo della privacy, che rivoluzionerà completamente le regole del settore con delle sanzioni pesantissime. Anche in questo caso, quindi, come dire, l'intervento del Senato in qualche modo anticipava i tempi rispetto a una cosa che comunque lo Stato italiano dovrà recepire, diciamo, automaticamente. Per una volta ci arriviamo prima, non ci farebbe male, insomma. No, voglio dire, sicuramente questo era un aspetto fondamentale e necessario. Quindi la nuova norma introduce il divieto di cessione dei consensi ai terzi, quindi se lei lo dà a me io non lo posso, come dire, vendere a lei. Rimangono, come dire, salvi solamente i consensi che abbiamo dato alle aziende con le quali abbiamo precedentemente un contratto, cioè se lei ha un'assicurazione o un contratto bancario, ha un rapporto contrattuale con quel soggetto. Vabbè, diciamo, mi chiamano, rimane... questo è normale. Esatto. Mi chiamano e mi possono invece... chiamare, se ho capito bene, sì. anche fino a 30 giorni dopo la chiusura di sì. un contratto, non oltre 30 giorni, cioè non possono continuare, che ne so, la Vodafone a chiamarmi 6 mesi dopo perché ho chiuso il contratto. Questo non hanno un mese di tempo per farci cambiare idea. Assolutamente, dopodiché i nuovi consensi andranno riacquisiti con delle nuove regole molto più stringenti, ad esempio è stato introdotto il principio fondamentale che se lei ha anche solo un telefono cellulare e esprime il desiderio di non voler essere chiamato, quel desiderio è valido. Perché prima, dobbiamo dire che oggi in Italia c'è un problema da questo punto di vista, nel senso che nel famoso registro delle opposizioni si possono scrivere quasi soltanto i numeri fissi, sì, e non i cellulari. Questa è una cosa che andava riformata. Sì, andava assolutamente riformata, esatto. Mi scusi, io le volevo chiedere una cosa, nel senso che ovviamente sono preoccupato e dispiaciuto che si perdano posti di lavoro. No, però la cosa che mi chiedo è, nel momento in cui si vogliono ridurre le chiamate, perché siamo vessati da un numero eccessivo di chiamate, non è un po' inevitabile che si perdano dei posti di lavoro che ovviamente andranno ricollocati? No, io non temo più questo effetto, nel senso che con l'introduzione della modifica del numero identificabile e ricontattabile, secondo me non si perderanno posti di lavoro, perché auspicabilmente questo mestiere potrà essere fatto solo da società che operano all'interno di un sistema di regole, quindi sarà un canale commerciale che tendenzialmente si qualificherà, e quindi, come dire, la parte che eventualmente verrà meno è una parte, come dire, del sommerso. E quindi, ma scusi, non si rischia che quindi non diminuiranno nemmeno le telefonate che ci arrivano? Certo. No, diminuiranno senz'altro, rimarranno auspicabilmente quelle che vengono effettuate in certi orari, con un certo garbo, insomma, quindi nel rispetto del consumatore finale, da parte a quelli che vanno contro le regole, diciamo. Lei dice nel momento saranno loro a pagare, anche giustamente se vogliamo, visto che sono illegali, saranno loro a smettere di telefonare, invece tutto ciò che è il telemarketing ufficiale rimarrà. Questo è l'auspicio, infatti abbiamo invocato controlli, monitoraggio, sanzioni, perché altrimenti continueremo ad assistere al fenomeno. Quindi siete contenti di questa legge, in realtà? Cioè, assolutamente. Non si perderanno posti di lavoro, si eliminerà una parte di sommerso. Assolutamente, no, siamo assolutamente contenti della modifica che è stata introdotta, pensiamo che sia una legge giusta, necessaria, diciamo, sia dal punto di vista del consenso, della privacy, che dell'effetto. Bene, potrebbe essere un caso nel quale si è raggiunto un compromesso che soddisfa tutti, speriamo che non lasci tutti scontenti, ma mi sembra, almeno dal vostro punto di vista, che non sia così. Tra l'altro, speriamo, l'auspicio è questo, che si lavori magari meno ma meglio, e che il call center possa veramente essere un nostro alleato, anche perché può succedere, io giro la domanda agli ascoltatori all'800 24 00 24, come no, se può succedere che ti chiamano proprio nel momento in cui tu avevi bisogno, che ne so, di una nuova fornitura telefonica, ti chiamano, ti beccano in quel momento e può anche essere utile. Vi chiedo, vi è capitato di chiudere un contratto proprio attraverso una telefonata di un call center, che normalmente 9 volte su 10 magari lo viviamo male, però quella volta su 10 che capita che ci serve, può succedere. No, e questo è un, visto che c'è concorrenza sui servizi, le tariffe si sono abbassate, anche se a volte non sembra, eccetera eccetera, questa è una casistica che vi chiedo oggi all'800 24 00 24 di sottoporci. Sarzana, grazie per essere stato con noi, il presidente di AssoContact. Staremo a vedere, perché parliamo di modifiche che sono alla ancora camera, al vaglio, ma sono al vaglio e devono essere approvate, poi siccome la legge è stata modificata dovrà tornare al Senato. Grazie per essere stato con noi. Grazie. A tra poco, anche con le vostre telefonate per declamare in rima, o se non ce la fate anche in prosa, ma vedo che ce la fate. I vostri giardini, il vostro verde. Il vostro verde sul balcone, a tra poco. Logica, spazio, tempo. Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta... Si può fare. Cronache da un paese migliore. Allora, sentiamo un po' che cosa si è mosso nella settimana in giro anche per il mondo. Senti cosa si può fare nel mondo. Questa è la rivoluzione delle rivoluzioni, la rivoluzione di Playboy, perché Ines Rau è la prima playmate transgender. è accaduto anche questo. Si chiama Ines Rao, è francese, ha 27 anni, sarà la prima playmate transgender nella storia della rivista fondata da Hugh Hefner, che come sapete è scomparso lo scorso settembre. Lei è molto è bella, ha dei canoni estetici un po' in equilibrio, diciamo così, tra i due generi. Insomma, che dire, non c'è più il Playboy di una volta, si potrebbe dire così, buttarla in battuta, però è questo quello che si può fare nel mondo. Incredibile. Un altro si può fare nel mondo dalla Nuova Zelanda, chi è la nuova prima ministra? Si chiama Jacinda Ardern, ha 37 anni ed è stata eletta prima ministra in Nuova Zelanda. È la più giovane leader del partito laburista del paese, ha una grande passione per la musica che l'ha portata a suonare anche come DJ in club e festival. Noi facciamo i nostri migliori auguri a Jacinda Ardern, perché il fatto che sia una donna, che sia giovane, che sia pure una DJ, ci sembra un grandissimo si può fare. E poi il fatto che a 37 anni si è giovane mi fa molto piacere, perché cioè, c'è speranza anche per noi. Cioè dice che non è sufficientemente giovane, ma è il primo ministro però, Ok, allora, ascoltatori, dove andiamo? Andiamo con Francesco, che ci chiama da Bari. Buongiorno, Francesco. Buongiorno, salve. Buongiorno. Su cosa volevi intervenire? No, sulla questione dei call center, su cui avete fatto, diciamo così, una battuta, non sulla legge che si discuterà. Sì. Noi siamo un paese strano, pensavo, perché siamo un paese che in cerca di costanti occasioni di lavoro, poi però... giustamente, per carità, perché ce ne sono delle storture, anziché andare a combattere le storture andiamo di fatto a combattere, vuol dire ad ammazzare il problema, no? Chiudendo i call center, chiudendo delle norme tali che spingono i call center ad andare via dal paese e ad aprire in Albania, ad aprire in Romania. No, però guarda Francesco, abbiamo appena sentito il presidente di AssoContact, il compromesso aggiunto alla Camera è positivo anche per gli operatori, quindi non andrà via nessuno. E tra l'altro semmai sarebbe il problema opposto, nel senso che semmai sono i call center dislocati in altri paesi che quindi non rispettano la nostra legge, che a quel punto verrebbero, diciamo, giudicati illegali da noi e quindi lavorerebbero di più i nostri call center. Certo, mi sembra giusto, ovviamente, mi sembra giusto. Si tratta solo di cercare sempre un punto di equilibrio che porti la tutela della privacy, certo, legittima, certo. E quindi evitare gli eccessi di disturbo, però a non mancare delle occasioni di lavoro che in questo momento, di cui il nostro paese ha bisogno. Va bene Francesco, grazie, e questo è il punto di equilibrio di cui abbiamo parlato stamani, speriamo che sia stato raggiunto, in effetti sarebbe una buona notizia. Giuliano da Alessandria, vai. Sì. Prego. Dunque, volevo dare solo un'informazione. È capitato anche a me di essere scocciato variamente. Sono andato a rivolgermi alla team. Mi è stato detto che potevo inserire il mio numero in una lista nera e che questa sarebbe stata praticamente divulgata a tutti gli operatori in modo tale che non sarei più... Il cosiddetto registro delle opposizioni. Ed era, ed era il numero del telefonino? Sì, il numero del telefonino da direttamente alla team, cosa che avevo fatto anche a partire da 2 anni a questa parte, ma non era stato efficace. E adesso non la chiama più nessuno, effettivamente? Al momento siamo andati 3 giorni fa, sono 3 giorni che vivo tranquillo. Beh, tre giorni. Facciamo una cosa, ci richiama fra un mesetto e ci dice com'è andata? Senz'altro. Va bene. Perché i numeri che ho io sono questi. In Italia ci sono 117 milioni di utenze telefoniche, solo 13 milioni sono iscritti. Possono iscriversi al registro delle opposizioni, e solo il 10%, 1,5 milioni in realtà lo sono effettivamente. Sappiamo che su questo ci sono molti problemi, perché in passato uno si iscriveva a questo registro ma poi ti chiamavano lo stesso. Adesso... è uno di questi, ce l'abbiamo appena avuto in linea e ha detto che ci richiama fra un mesetto. Traffico. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Se siete caldi, cari ascoltatori, se siete pronti con le vostre poesie in rima. Graziella, dalla provincia di Viterbo, buongiorno, benvenuta. Buongiorno. Buongiorno. E io avrei preparato, buttato giù una poesiola per il mio giardino. Ma è straordinario, tu vogliamo sentirla. Hai un giardino tu, Graziella? Prego? Hai un giardino sì, proprio? Sì, un giardino, ma sì. Che meraviglia, vai, vai, sì. vai. Non è grande il mio giardino, ma di piante ce n'è tante. Le camelie, il gelsomino e le rose, oh mamma quante. Poi narcisi, bianchi gigli, felci, menta, rosmarino. Io li curo come figli e mi aiuta il mio bambino. Ma che bello. È bellissima. Beh, ma Graziella, però ha un giardino importante, direi, insomma. Beh, insomma, sì, non è grandissimo, però non tutto, ma di tutto. Via, io ci tengo. Dal gelsomino al rosmarino. Sì, rosmarini, tutte le piante aromatiche. Gelsomino tutto. Bambino era stata un'imbeccata che vi avevo dato agli ascoltatori. E Graziella l'ha colta. L'ha colta in qualche modo. Adesso sarà difficile stabilire chi si porta a casa il premio, perché è stata brava anche lei, come anche Giorgio D'Alecco e anche Carla. E anche Carla. Anche Carla. Benissimo, adesso mettiamo il cervellone qua della redazione. Si può fare blu e estrarrà tra poco il vincitore. Ve lo diciamo tra poco. Allora, voi lo sapete che noi siamo sempre in prima linea nel raccontare le eccellenze nella gestione dei rifiuti in Italia. Non mancano, da Capannori a Treviso, Parma, Milano, eccetera. Però la storia di oggi è stupenda. Ne abbiamo trovata una, ascoltatori, che è straordinaria. L'idea è venuta al sindaco di Longobardi, in provincia di Cosenza, che è in collegamento con noi, Giacinto Mannarino. Buongiorno. Sì, buongiorno a tutti voi. Buongiorno. Regalare una coppia di galline a ogni famiglia per abbattere così, i costi dei rifiuti organici, perché loro mangiano fino a 300 kg. 300 kg di rifiuti all'anno? All'anno. È così, è così. Ma sentiamo il sindaco, che ne sa sicuramente molto più di noi. Ci spieghi. Sì, è un'iniziativa che di fatto ha guardato alle famiglie del nostro passato, perché le galline noi le abbiamo sempre allevate, come credo in gran parte dell'Italia rurale. E finalmente abbiamo capito come ci si occupava dei rifiuti nell'Italia rurale, cioè che come mai non c'era questo problema dell'umido, del porta a porta, perché c'erano le galline. C'erano le galline. Le galline facevano il proprio lavoro. Certo. Giustamente, come dicevate, mangiano una grandissima quantità di rifiuti organici, che sono i rifiuti delle nostre tavole. Quindi 300 kg in un anno, una coppia di polli ci siamo mantenuti al ribasso, perché consumano anche qualcosa di più. La gallina mangia sempre praticamente. E soprattutto poi producono. Galline ovaiole, quindi il vantaggio è doppio. Noi abbiamo dato delle galline ovaiole, perché le galline ovaiole producono 200 uova a testa, in media. All'anno? All'anno. Quindi diventano anche un'integrazione anche al reddito. Ci mangiano quello che noi butteremmo via. Ti svegli la mattina, ti fanno l'uovo e mangi l'uovo. E poi loro si mangiano anche il guscio. Se lo rimangiano loro. È un meccanismo perfetto. Senta, ma quanto scusi sindaco, ma quanto spenderà per comprare? Quanti abitanti c'ha il suo comune? Allora, noi abbiamo 2200 abitanti. Sì. Siamo un piccolo comune. C'è una zona rurale dove noi abbiamo dato la possibilità delle galline, mentre chi è nell'area urbana, noi diamo le compostiere domestiche. Ah, ok, chi non ha un giardino. Esatto, perché mi chiedevo questo, cioè se tutti erano disposti a mettersi in casa due galline. No, infatti non sono disposti, perché giustamente chi abita soprattutto nelle zone urbane, poi la gallina, l'unico problema è che dà un po' fastidio. Si malsposa col monolocale, diciamo, la gallina. La coppia di galline, soprattutto. La coppia di galline. Però noi, chi ha 30 metri quadrati di giardino, diamo la compostiera domestica, che funziona altrettanto bene, perché, per esempio... Qual è la metratura, i metri quadrati minimi che lei richiede? Perché mi sembra di capire che lei mi è amico della gallina, quindi non me la vuole mettere in condizioni di sofferenza. Quanti metri quadri devo avere, minimo, per almeno avere diritto? 30 metri quadri. Cioè, dal 30 metri quadri in su di giardino mi scatta la gallina, no? Le due galline. Se no, compostiera domestica, che però non ha la stessa poesia, posso dire, Sì, no, assolutamente no. Tra l'altro uno potrebbe anche dire, no, ma che schifo la gallina che poi fa le uova, mangia tutti gli scarti, perché in effetti... Però questo ci aiuta a riscoprire una verità, una verità antica, è così, le galline mangiano tutto. E in più, se possiamo, visto che ormai è un po' più tardi, e in più producono anche fertilizzante per gli orti. Sì, è vero. La pollina delle galline è un ottimo fertilizzante per gli orti e per i giardini. Quindi anche da questo punto di vista il rifiuto zero lo raggiungiamo a tutti gli effetti, perché non si va a buttare nulla in discarica. Noi abbiamo fatto questo ragionamento perché a noi ci costa il conferimento in discarica, come costa a tutti i comuni. Certo. Uno dei rifiuti più costosi, perché più pesanti, è lo rifiuto di scarto alimentare. Perché quindi più pesante, meno riesco ad andare in discarica e più guadagno. A chi si prende le galline, si impegna a tenerle per 2 anni? Questo è il punto, però bisogna impegnare, perché comunque che tipo di manutenzione... manutenzione di galline, stai dicendo? Quanto sei cittadino? La gallina. Cosa devo fare con la gallina? Io mi devo impegnare a mantenere le galline raggiungendo il principio del benessere degli animali, quindi senza maltrattamenti. Io ti posso controllare come ente quando voglio, posso venire a controllarti se l'animale sta bene, ben trattato, è vivo. Tu lo mantieni per 2 anni, avrai uno sconto in bolletta del 20% perché non mi conferisci organico, ti prendi le galline, di cui abbiamo già detto dei benefici. Scusi, però ho capito bene, lei fa lo sconto del 20% della tassa? Sì. Ah, beh, non è male questo. Allora, io ci guadagno le galline, le uova, lo sconto del 20%. E lo sconto del 20%, perché non mi dai l'organico che a me mi costa portarle in discarica. Ma lei ha già avuto un po' di adesioni o stiamo parlando ancora così? No, allo studio. Abbiamo già consegnato nel 2017 100 coppie di galline. 100 coppie. 100 e infatti coppie. Ho letto che avete risparmiato circa 5.000 euro e ne avete spesi solamente 750 per comprare appunto 160 galline. Ma lei è un genio, sindaco. No, genio. Abbiamo guardato un po' al passato quello che era una tradizione delle nostre famiglie, perché giustamente il rifiuto una volta... Dalle tradizioni si ritrovano grandi questioni. Grazie, Manarino, sindaco di Longobardi. Dobbiamo chiudere e dobbiamo anche dire... che l'ascoltatore che vince il nostro cervello ha estratto in effetti è Giorgio D'Alecco. Giorgio D'Alecco, sia per la poesia, che comunque erano belle tutte, ma soprattutto per l'interpretazione che ci ha regalato, dove addirittura sbadigliava dicendo la parola sbadigliando. Ci sentiamo domani dopo il GR delle 8 con Si può fare, un programma che realizziamo insieme ad Andrea Piana, Claudia Schiattone, oggi Filippo Regina in regia. Ciao, grazie da Alessio Maurizi e ciao da Carlo Gabardini. A domani.